Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, ben ritrovati. Nicoletta, buongiorno. Eccomi, come mi vedi? Ti vedo benissimo oggi. Infatti sto molto bene. Splendente e lucente. Ti farà bene il clima del Salone del Risparmio? Infatti, proprio qui volevo venire. Allora, intanto oggi è giovedì. Di solito questo è il giorno della settimana in cui andiamo tutti a scuola di risparmio, non ci fa male, con la nostra rubrica Investire Informati. Oggi più che mai qui al Salone rinnoviamo il nostro impegno per l'educazione finanziaria, per sottolineare l'importanza di dare spazio a questi temi. Siamo alla terza e ultima giornata del Salone. Voglio ricordare che oggi pomeriggio c'è anche la conferenza di Radio 24. Che abbiamo intitolato Diseducato a chi, italiani e risparmio, è davvero un problema di educazione o diseducazione finanziaria? Noi parleremo di educazione finanziaria mettendo in risalto le responsabilità del risparmiatore, che naturalmente deve informarsi un po' di più, impegnarsi un po' di più ad andare appunto a caccia di informazioni nella maniera giusta, ad essere consapevole delle proprie necessità, ma naturalmente parleremo anche un po' delle responsabilità degli addetti ai lavori, chiedendoci quanto siano effettivamente capaci di parlare chiaro con le persone e quali limiti abbia ancora il linguaggio finanziario. Un tema molto caldo del quale anche quest'anno a vari livelli si è discusso qui al Salone del Risparmio. Noi ne parleremo con Fabio Picciolini, che è un nostro amico del consumerismo italiano, Sergio Sorgi, un grande esperto di educazione finanziaria e di previdenza, e con una giovane, Domitilla Ferrari, che è un'esperta di comunicazione e marketing, con cui faremo proprio un focus sul linguaggio. Questo è il nostro convegno. Stamattina invece qui a Cuore Denari in diretta, per la parte di denari avremo tante indagini delle quali parlare anche oggi, per esplorare cosa il sentiment dei risparmiatori, lo che sentiment così. hanno un sentiment, ancora un po' di sfiducia sento che è percepita a vari livelli. Oggi presenteremo i primi risultati di Ubi Pramerica People Lab, è un'altra indagine molto interessante e accurata appunto, che viene presentata qui al Salone, e la presenteremo proprio con chi l'ha commissionata, elaborata, studiata, e oggi ce la viene a raccontare Andrea Ghidoni, amministratore delegato e direttore generale di Ubi Pramerica SGR, che salutiamo, è qua. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Un uomo cuore denari, perché è anche un gran maratoneta. Sì, oltre la maratona. Grande appassionato. Ottimo, perfetto. Quindi ancora una volta dobbiamo dare dimostrazione del fatto che il benessere si ricerca a 360 gradi, soprattutto nei nostri due campi preferiti, la finanza e il benessere. Siamo assolutamente intrecciati, e poi chi fa sport tende poi progressivamente a curare molto l'alimentazione, e anche chi cura l'alimentazione, vedendone i benefici, riesce forse a scrollare di dosso la pigrizia, a darsi una mossa, e abbinando queste due dimensioni riesce veramente a investire in salute. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Per fare tutto questo c'è bisogno naturalmente di persone che ci accompagnino. Allora, sai che il consulente finanziario diventerà probabilmente un po' un terapista finanziario. C'è addirittura un'associazione che sta nascendo in Italia, più tardi ce la racconterà uno dei fondatori di questa organizzazione, che è il professor Duccio Martelli di Perugia, un nostro amico, viene spesso qui a Cuore Denari, ci racconterà che tipo di piega sta prendendo anche questo dibattito. Terapia anche in questo caso bisogna fare. Tu come ce la proponi invece? Allora, io vi propongo la figura che potrebbe aiutarci, qualora lo decidessimo di farlo, di cambiare un po' il nostro stile alimentare, senza affidarci sempre ai consigli degli amiche, dei giornali, dei sentito dire, o di quelle diete del senza, che alla fine possono davvero impoverire la nostra dieta, non solo di qualità ma di preziosi nutrienti, e alla fine presentare il conto. Ma guarda come te l'ho detta tutta. Dobbiamo riscomodare una delle nostre parole preferite anche oggi, che è assist. No, diversificazione. Ma quella era troppo facile, perché vabbè, tu me l'hai dato l'assist con il terapista finanziario. Allora, 800 24 00 24, se volete partecipare in diretta anche oggi, anche se siamo in trasferta, il microfono è sempre aperto per gli amici che ci seguono da casa. Allora, la domanda che faccio, che mi aiuterà a vivacizzare la conversazione col dottor Ghidoni, è questa: quali sono i fatti, le notizie, i timori o anche gli entusiasmi che hanno influenzato negli ultimi mesi le vostre scelte di risparmio o che le avrebbero influenzate, anche se non sfociano in scelte concrete. Quali reazioni provocano in voi come risparmiatori fatti di attualità? E poi vi sentite buoni conoscitori dei termini finanziari che sentite, ad esempio nei notiziari o leggete sui giornali? C'è qualche concetto che proprio non vi entra in testa? A chi vi rivolgete in questi casi? Andate a caccia di informazioni su internet, come c'è dottor Google, anche nella finanza il motore di ricerca è la nostra prima scelta, naturalmente. Qual è il vostro punto di riferimento? È un po', sono questi, dottor Guidoni, i presupposti dai quali siete partiti appunto per attivare il vostro laboratorio di ricerca, lo possiamo chiamare così? È un laboratorio permanente, perché questa è solo la prima fase, poi ne seguiranno altre nel corso dell'anno, e proprio con la volontà di andare a conoscere meglio quello che è il sentiment degli italiani, soprattutto di fronte agli eventi di attualità che li circondano, che li hanno circondati in questi ultimi mesi. Tenete conto che la ricerca è stata fatta tra il 20 e il 23 marzo, quindi estremamente recente. Recentissima. Esattamente. E poi anche a indagare nello specifico la conoscenza tecnica che hanno di alcune terminologie economiche e finanziarie, in particolare quelle che sono state le più diffuse nel corso degli ultimi 24 mesi. Adesso le ricorderemo e magari interrogheremo anche i nostri ascoltatori. Volentieri. Per capire se hanno preso coscienza di questi nuovi termini e ne hanno compreso appieno il significato. Allora, dal 20 al 23 marzo un'indagine condotta su un campione di 1000 persone. Quali sono esattamente appunto le domande che avete fatto? E poi naturalmente ci racconta che cosa avete scoperto, perché quello che mi ha colpito particolarmente in questo salone, dottor Guidoni, è che tra le tante indagini che sono state presentate continua a permanere ancora una larga sensazione di sfiducia e scoramento tra i risparmiatori italiani, soprattutto perché non sanno ancora bene che tipo di relazione impostare con il consulente finanziario. E il tema della fiducia mi pare che sia centrale anche dalla vostra inchiesta. Assolutamente sì. Se dovessi tirare le somme della ricerca, sicuramente la fiducia è l'elemento centrale, quello che ci chiedono i risparmiatori, gli investitori, è di poter avere fiducia nel contesto di riferimento, e vedremo poi in dettaglio perché, e di potersi fidare, e di fidarsi proprio di tutti noi che facciamo parte di questo settore, che interagiamo regolarmente con loro. Quindi, allora, ci racconti un po' che tipo di risultati sono emersi dal vostro primo laboratorio. Sì, volentieri. Allora, il primo aspetto molto interessante penso che siano gli eventi che condizionano maggiormente i risparmiatori. A differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, quelli che li condizionano sono eventi domestici, quindi eventi italiani, non tanto quello che succede in Europa o nel resto del mondo, ma eventi italiani. In particolare nei primi tre posti, quindi i tre eventi più importanti, più influenzanti, che influenzano maggiormente, cioè la corruzione in Italia, il debito pubblico e il terrorismo, l'ISIS. Quindi eventi di estrema attualità, ma anche, se volete, piuttosto sorprendente. Perché sorprendente? Perché gli eventi italiani, se ci pensate, sono, è vero, molto condizionati in base a quella che era la storia dei risparmi italiani, che erano molto domestici, ma uno dei mega trend nel risparmio gestito è proprio che ci sta spostando con un corretto approccio di diversificazione. Eccolo. Di asset, torniamo su quanto detto prima, e geografica, ci sta spostando più verso la globalizzazione, quindi certo. Investimenti a livello globale. E quindi è chiaro che gli eventi italiani sono molto meno impattanti da questo punto di vista. Quindi corruzione, debito pubblico e terrorismo, e di conseguenza le principali preoccupazioni legate a questi aspetti come condizionano poi le scelte di risparmio e di investimento delle persone? Verso che tipo di strade portano le persone? Sì, fortunatamente abbiamo si appoggiano, e speriamo che lo facciano ancora di più, a operatori specializzati. E questa è una grossa differenza, perché gli operatori specializzati sono poco condizionati dalla emotività e molto più dalla razionalità, che è lo stesso poi criterio che guida i mercati. Perché dico questo? Perché se voi guardate ad esempio il MSCI World, che è l'indicatore che rappresenta meglio l'andamento dei mercati a livello mondiale, quello che si vede è che negli ultimi 30 anni è stato condizionato da fattori macroeconomici, tipo la grossa crisi del 2000 è stata la bolla internet, la crisi del 2007 è stata la bolla immobiliare. In mezzo a queste due grosse bolle che hanno invertito i trend di mercati, abbiamo, ahimè, molti atti di terrorismo, ma che non hanno in alcun modo influenzato i trend di lungo periodo dei mercati finanziari. Questo per dire che cosa? Per dire che se è corretto che alcuni eventi, anche tragici, ci condizionino nella sfera emotiva personale, è importante poi, ogni qualvolta andiamo a investire il frutto di sacrifici di molti anni di risparmio, è importante che lì invece utilizziamo la razionalità. Ecco, che tipo di profilo emerge del risparmiatore italiano, oltre alle scelte che fa di carattere naturalmente emotivo, perché sono condizionate da questi fattori potenzialmente poi incontrollabili, perché naturalmente il fattore terrorismo, come facciamo a sapere quello che accade, basta guardare quello che è successo anche in questi giorni, no, tra le grandi città europee. È un risparmiatore appunto che quindi tende a proteggersi facendo anche delle scelte di investimento sbagliate. Lei ci diceva sì, certo, ci prova naturalmente ad affidarsi ad un consulente professionale e però poi manifesta probabilmente anche un po' di resistenza rispetto a suggerimenti dati. Ecco, concretamente, sì, gli errori che si rischiano di fare essendo un po' attanagliati dalla paura, quali sono? E questa paura e questi eventi che condizionano l'emotività sicuramente poi condizionano anche la priorità in logica di investimento. Ed è interessante vedere come si è invertito. Se fino a qualche anno fa il rendimento era l'obiettivo principale che si ponevano gli investitori, oggi invece la sicurezza dell'investimento, quindi c'è più una priorità del preservare quello che si è accumulato in primo luogo prima che vederlo accrescere. Quindi la sicurezza al primo posto e abbiamo solo al secondo e al terzo posto il rendimento e la liquidità dell'investimento. Allora, adesso ci fermiamo perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi andremo all'altra parte dell'indagine, quella molto interessante che indaga sul grado di competenza raggiunto dagli italiani alla luce delle tante novità anche finanziarie che continuano ad arrivare, con le quali ci dobbiamo confrontare ogni giorno, e anche se facciamo un po' di fatica naturalmente dobbiamo prendere confidenza con tutto questo. Ci fermiamo, il traffico a tra... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati in diretta dal Salone del Risparmio di Milano, ottava edizione, terza e ultima giornata di diretta per noi. Stiamo commentando l'Ubi Pramerica People Lab, la prima indagine condotta da Ubi Pramerica SGR per esplorare il sentiment degli risparmiatori italiani, ma per capire meglio soprattutto quali fatti condizionano le scelte di risparmio e di investimento, e soprattutto adesso eravamo al punto del livello di conoscenza degli italiani dei principali termini finanziari, quelli che imperversano di più sui giornali, quelli con i quali anche noi giornalisti di questo campo ci divertiamo provando mediamente a fare la contestuale traduzione, perché pur avendo tanto parlato da un anno e mezzo dottor Ghidoni, Andrea Ghidoni, amministratore delegato e direttore generale di Ubi Pramerica SGR, pur avendo tanto parlato di bail-in, in realtà ci sembra ancora un'entità astratta che arriva da Bruxelles, che ci è stata calata dall'alto, ma in realtà qualche prova tecnica di bail-in, ahimè, l'abbiamo avuta anche noi qui con le quattro banche risolte, con la difficile situazione di Monte dei Paschi. Non una piena risoluzione e una deflagrazione bancaria, però abbiamo avuto modo di prendere un po' di confidenza anche in termini concreti di questo termine, per l'appunto. Gli altri di difficile comprensione tra gli italiani quali sono? Sì, noi abbiamo indagato in particolare la conoscenza di quattro terminologie. Una è bail-in, quantitative easing, gestione attiva e quartier one. Quello che emerge è che il 64% della popolazione conosce il significato di almeno uno di una di queste parole, e solo, mi permetto di dire, l'8% conosce il significato di tutti e quattro le terminologie. Quindi qual è quello più conosciuto? No, sono abbastanza uguali, perché 32-33%, però il più conosciuto è bail-in proprio, ma prevale di poco rispetto agli altri. Quindi quello che emerge non è una conoscenza particolarmente diffusa, in particolare se pensiamo a tutto lo sforzo che è stato fatto in termini di comunicazione negli ultimi 24 mesi da tutti gli organi di comunicazione. Quindi nello specifico non conoscono il termine, ma mi permetto di dire che invece ho la sensazione che ne riconoscono le ricadute di cosa implica questo. Quindi non sanno esattamente definire in cosa consiste e spiegare cos'è il bail-in e cos'è il quartier one, ma sanno meglio spiegare cosa vuol dire nel caso in cui ci sia questa casa di bail-in. Allora, tra l'altro noi abbiamo ancora pochi minuti di diretta, ma io lancio il domandone fra gli ascoltatori. Dai, mi piace. Il primo che ci risponde bene alla se ci dà la definizione che ha compreso leggendo i giornali di quantitative easing o bail-in, quartier one e gestione attiva, che è anche detenuta in italiano, quindi dovrebbe essere teoricamente la più facile, ma secondo me forse la più difficile da poter spiegare in termini tutti semplici. Tutti e quattro te lo devono dare? No, scelgono uno, io do quattro opzioni, la prima alla quale rispondono noi la raccogliamo volentieri. Dai. Che cosa fate? Una volta che avete compreso questi dati, dottor Ghidoni, si trasformano anche i risultati dell'indagine in iniziative concrete di divulgazione finanziaria da parte vostra? Sì, noi quello che facciamo è predisponiamo un'informativa che distribuiamo a tutti i nostri clienti. Non è che li interrogate allo sportello i vostri consulenti prima di proporre delle soluzioni di investimento? No. Ti chiedo che cos'è il QE se non niente. Noi quello che cerchiamo di fare è di aiutare tutte le reti distributive che distribuiscono i nostri prodotti affinché siano fornire tutti gli elementi perché siano il più possibile preparati nel poi interloquire con quello che è il risparmiatore finale. Quindi l'utilità di queste ricerche sta proprio in questo, cercare di conoscere meglio il cliente finale per poi trovare la soluzione di investimento migliore anche in funzione di quelle che sono di volta in volta le opportunità del contesto finanziario. Certo. Riescono queste iniziative a ridurre la distanza che ancora permane tra l'industria del risparmio e il risparmiatore finale, dottor Ghidoni? Avete la sensazione qualche volta di concretizzare con dei risultati appunto queste vostre iniziative? Perché a noi piace anche come giornalisti massacrare l'industria finanziaria quando questa non si comporta correttamente, così come ci piace raccontare quando fate appunto e proponete queste iniziative di riduzione della distanza col risparmiatore. Non riusciamo però a capire se ci sono delle valutazioni di impatto anche rispetto alle vostre iniziative. Voi commisurate anche queste? Certo, secondo me non c'è mai un elemento che risolve da solo il problema, però una serie di tasselli come questo secondo me aiutano e vanno nella strada corretta per cercare di ridurre questo gap che c'è. Quindi bisogna continuare a farlo, ripeto, non sono risolutivi, una sola iniziativa non può essere risolutiva, ma penso che sia l'unico modo per cercare di essere sempre più vicini ai clienti e soprattutto parlare con loro con grande trasparenza e semplicità. Allora abbiamo Giulio dalla provincia d'Alessandria all'800240024. Giulio, buongiorno, guardi che la interrogo, eh. Buongiorno. Io sono un vostro ascoltatore da un bel po' di tempo. Io da 5 anni investo sui piani di accumulo, una cifra di 700 al mese. Non ho il mutuo, non ho finanziamento, ho investito sui piani di accumulo diversificati. In sei piani diversi, no? Soprattutto su Bipra America, azione USA, azione euro. Adesso sono in positivo, no? Non lo sapevamo, dottor Ghidoni, non ce l'aveva detto, sì. Sono in positivo, conviene vendere i piani di accumulo, sono positivo, o tenerli? Giulio, quanti anni ha? 40. Allora, vabbè, intanto è una chiacchierata che dovrebbe fare con il suo consulente. Il tema è sempre quello, dottor Ghidoni: a che cosa le serve questo denaro? Se è in positivo non può essere utilizzato un piano di accumulo come se fosse un'azione sulla quale si è investiti naturalmente in maniera speculativa, il mordi e fuggi. Il piano di accumulo ha un senso di lungo termine, in primo luogo. In una chiacchierata estemporanea fra amici in cui, percependo la sua professionalità, una persona le facesse una domanda di questo tipo, certo, la prima considerazione da fare con lui quale sarebbe? Perché non possiamo fare in due secondi una consulenza a Giulio. Prima però, di tutto posso ringraziare il radioascoltatore per la fiducia che ci ha accordato. Non l'abbiamo scelto, non ce l'aveva detto prima. No, detto questo, come diceva lei, il piano di accumulo ha un orizzonte temporale di lungo termine. Mai come in questa fase, secondo me, è uno degli investimenti più appropriati, delle modalità di investimento più appropriate, perché permette anche di mediare l'alta volatilità che c'è sui mercati. Quindi, oltre ad avere il grande pregio di dare un orizzonte di lungo termine, permette anche in fase di acquisto di mediare chiaramente le grandi oscillazioni che ci sono sui prezzi. Certo, quindi Giulio, se non ha proprio bisogno, stia lì tranquillo, continui ad accumulare. Lei, che può naturalmente, ha una bella propensione al risparmio, ne avrà secondo noi soddisfazioni. Ci scriva però qualche dettaglio in più. Gli ascoltatori che hanno risposto alle domande li sentiamo dopo il giornale radio. Dottor Ghidoni, grazie. Grazie a voi. Grazie. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Eccoci ancora in diretta, allora per l'ultima ora insieme da trascorrere qui in diretta dal Salone del Risparmio introduciamo, Nicoletta, il tema della terapia a 360 gradi. Io ci mi occuperò piace. Di quella finanziaria. E tu, io ovviamente, quella legata alla salute, al benessere, all'alimentazione, insomma. Ma intrecciatissime. Cosa dobbiamo dire? Che? Che Cuore Denari fa scuola. Esatto. E oggi ci è giovedì. Dispiace. Ci dispiace ma siamo arrivati prima. Che hanno perso questo treno, ma ormai da 4 anni che rivendichiamo con forza. È da 4 anni solo che siamo insieme. Non lo so, se tuo marito è d'accordo. Sì, vabbè, ormai lo sa. Lo sa. Se ne è fatto una ragione. Allora, abbiamo anticipato proprio ieri, il fatto che oggi avremo parlato di questa novità importante che arriverà prossimamente appunto nel nostro ordinamento, un tema del quale nell'ambito dei professionisti del risparmio si parla da tempo, ora è tempo di cominciare a preparare il terreno anche tra i risparmiatori. Parliamo delle... Adesso introduco il tema in maniera un po' complicata, ma poi la concretizzo per i nostri ascoltatori. Stiamo parlando del recepimento italiano di MiFID 2, che è l'aggiornamento della direttiva sui servizi di investimento. Questa seconda versione perché è importante? Perché è destinata ad incidere in maniera significativa nell'attività dei consulenti finanziari, in quanto le nuove norme hanno l'obiettivo di favorire una maggiore tutela, una maggiore trasparenza nei confronti dei risparmiatori. Questo nuovo processo di relazione nuova, quindi aprite bene le antenne, alzate bene le antenne, partirà il 1 gennaio dell'anno prossimo. Cosa faranno i consulenti finanziari? Dovranno sforzarsi un po' di più nell'effettuare la corretta valutazione di adeguatezza del risparmiatore. Io mi rendo conto che è un concetto un po' complicato. Cosa significa che una persona viene da me e deve valutare la mia adeguatezza? Deve fare in modo che io capisca fino in fondo se i prodotti, i servizi di investimento che mi offre sono in linea con il mio profilo di rischio. Okay. È un tema sul quale anche adesso stanno lavorando, ma dal 1 gennaio non ci saranno più scuse. Saranno i consulenti valutati molto rigidamente anche su come si comporteranno da questo punto di vista. E quindi i risparmiatori verranno proprio stressati all'inverosimile per far capire loro i concetti di tolleranza al rischio e capacità di sostenere le perdite. In pratica il consulente diventa il vero e proprio terapista finanziario, perché andrà a valutare il grado di stress del risparmiatore, che è già alle stelle, figuriamoci pure alla luce di questa novità cosa non dovrà sopportare. Però insomma, uomo avvisato, mezzo salvato, Duccio Martelli, benvenuto a Cuore Denari, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Professore di economia degli intermediari finanziari all'Università di Perugia, visiting professor alla Harvard University, fa un sacco di cose, viene spesso nella nostra trasmissione, soprattutto in queste occasioni, ed è ormai da tantissimi anni un profondo conoscitore, un esploratore delle nuove tendenze nel mondo della finanza comportamentale. Si occupa di finanza d'azienda, i suoi interessi di ricerca includono la finanza comportamentale, la neurofinanza, l'educazione finanziaria, la gestione dei portafogli e quant'altro. Quindi l'uomo giusto per parlare di tutto questo, soprattutto è tra i fondatori di questa associazione italiana di terapisti finanziari. Corretto. È un'associazione che sta nascendo in linea con quanto ovviamente avviene nel mercato americano. L'Italia purtroppo anche in campo finanziario è un paese follower, quindi segue più che le tendenze anche le abitudini e gli usi. Modo elegante per dire che è sempre in ritardo su tante cose. Corretto. Ecco, diciamo che in maniera elegante e diplomatica si dice che è un follower. Sei un follower. Quindi da alcuni anni, una decina di anni, in America si è capito che per raggiungere il benessere finanziario non bisogna guardare solo al rendimento del portafoglio, ma bisogna guardare alle caratteristiche personali e caratteriali di una persona. È nata quindi questa associazione, la Financial Therapy Association, che raccoglie in sé tutti terapisti finanziari o persone, enti, autorità di vigilanza che credono in questo progetto e in questa linea di pensiero. Chi si potrà iscrivere a questa associazione, tanto per capire? I consulenti finanziari, chi si occupa a vario titolo di questi argomenti, ma con che biglietto da visita? Assolutamente. Ci possiamo iscrivere anzitutto se siamo interessati al terapista finanziario. Capiamo quindi chi è questa nuova figura professionale che arriverà in Italia a partire dal prossimo semestre. Il terapista finanziario è quel professionista che aiuta a gestire il cliente non tanto da un punto di vista monetario e finanziario, quanto da un punto di vista personale e caratteriale. Come infatti hai anticipato tu, la nuova normativa imporrà sempre più e stresserà sempre più i consulenti a cercare prodotti che sono in linea o prodotti che non sono in linea e quindi da evitare assolutamente, in funzione delle caratteristiche personali e caratteriali dei nostri soggetti. Se ci pensiamo bene, tutti noi fin da piccoli siamo infatti stati in qualche modo abituati a gestire il denaro. Anche le semplici credenze, le abitudini o i proverbi e modi di dire sul denaro quanti ce ne sono. Ecco, tutto questo influenza il rapporto che tutti noi abbiamo con il denaro, con i nostri soldi. Quel tema delle credenze è molto interessante, adesso ci farà anche la lista di quelle più diffuse. E intanto saluto anche l'altro ospite che ci ha raggiunto qui in studio, che tra un po' dobbiamo lasciare perché deve andare appunto ad una conferenza, ma in realtà fino alle 11.30 può stare con noi. Fabrizio Fornezza, sociologo, ricercatore, presidente di Eometra Monterosa, corretto? È il nuovo istituto italiano di ricerca sui temi del mutamento sociale e dell'innovazione. Non è sufficiente come biglietto da visita? No. Cosa dobbiamo aggiungere? È quasi imbarazzato. Operaio specializzato dell'ingegneria sociale. Ma questo è quello che lei sociale, fa. Io so che lei è un sociologo, un grande ricercatore, un osservatore molto attento delle dinamiche relative al rapporto fra gli italiani e risparmio. La prima domanda che le voglio fare è se si è incuriosito rispetto a questa novità della quale stiamo parlando con Duccio Martelli, e non per essere maleducata con Martelli, ma per lanciare anche un po' un sassolino di provocazione. Avevamo bisogno di questa novità del terapista finanziario, secondo Assolutamente lei? Assolutamente sì, estremo bisogno. Ma il mercato finanziario sta maturando questo tema del benessere, che poi la veda dal punto di vista del terapista. Vedete anche le ultime comunicazioni che sono uscite, sono molto più ricche di esseri umani, eccetera, eccetera. Il problema è che un conto sono le elaborazioni astratte e un altro conto sono i comportamenti reali davanti al cliente. Sulla seconda parte, i comportamenti reali, c'è bisogno di tanta terapia. Allora Martelli, parlavamo appunto del terapista finanziario, chi potrà candidarsi a svolgere un ruolo di consulente mettendosi anche la casacca del terapista, ma secondo lei bisognerà cambiare approccio? Il mondo della consulenza, secondo lei, si vede secondo anche questa nuova angolazione? Probabilmente ancora no, infatti ieri quando abbiamo dato questa anteprima nel nostro evento molti erano rimasti un po' sorpresi e spiazzati, e tutto sommato è quello che anch'io volevo raggiungere, ossia un effetto quasi disruptive, ovviamente nel mio piccolo, nel campo della consulenza. Alla fine molti si sono ricreduti, hanno concordato con me sul fatto che il rendimento è chiaro, più c'è meglio è, ma i soldi non rendono felicità. Aiutano ma non danno la felicità. Corretto. E non lo dico, affermo solo io, ma ci sono anche premi Nobel che affermano questo, in modo particolare Daniel Kahneman, che in un suo studio ha detto è chiaro, avere un benessere finanziario aiuta, e lui ha identificato una soglia di circa $75,000, possiamo dire 70-80 mila euro per fare un paragone qui con il mercato italiano, al di sopra della quale non c'è un rapporto diretto fra bene, ricchezza e felicità. Quindi se aumenta la ricchezza non è vero che altrettanto aumenta la felicità finanziaria. Infatti, guardi, sta dando, sempre per utilizzare i nostri termini preferiti, un assist perfetto a Fornezza, perché so che anche l'indagine che lei presenterà più tardi insieme ad Assoreti in qualche maniera va ad esplorare proprio questo aspetto, la felicità degli italiani. Mi pare di aver capito che dalla vostra indagine un grande sentimento di felicità nel risparmiatore italiano non si possa dire che lo manifesti insomma in questo momento, Fornezza. No, noi siamo partiti dalla felicità degli italiani, come giustamente diceva lei, che non è dipendente dal denaro, come ha appena detto Martelli, e abbiamo capito che oggi bisogna parlare con le persone di elementi che migliorino la loro felicità se vogliamo che le persone ci diano retta. E questo vale per tutti i mercati. Il fatto che Cuore Denari già rappresenti una sintesi mi sembra veramente un luogo di punta da questo punto di vista. Che cos'altro emerge dalla vostra indagine, se la possiamo anticipare? Ad esempio emerge una cosa che completa il discorso che faceva Martelli adesso, su quanto è sensibile in questo momento il consulente finanziario, perché noi oltre a fare ricerca sugli italiani, facciamo anche ricerche sui consulenti che lavorano in Italia. È molto vero quello che dice, cioè tutti hanno all'interno, tutto il mondo della consulenza ha all'interno il seme, diciamo, di una maggiore centratura sul tema del human and personal, cioè argomentazioni davanti al cliente che riguardino la persona e non la sua asset allocation e gli altri aspetti tecnici. Ma in realtà in questo momento sono usate ancora poco. Dalle dichiarazioni dei consulenti non più di un 30% delle argomentazioni sono riferite al tema, diciamo, progetto personale, eccetera. Il resto, quindi oltre il 70%, sono argomentazioni classiche, quindi ottime, per carità, niente da dire, però sono asset allocation, la strategia, oggi di moda i macro trend, eccetera, eccetera. Diciamo che noi pensiamo che il valore della consulenza, anche alla luce del discorso MiFID 2, domani, quando dovremo giustificare di più, perché la conseguenza della MiFID 2 è anche dover essere più bravi a giustificare il valore della consulenza davanti al cliente, domani secondo noi si sposerà di più con dei temi legati alla vita delle persone. Senta, questa infelicità tra virgolette finanziaria degli italiani, che può essere ricondotta a tante motivazioni, sicuramente il quadro congiunturale non aiuta, ci sono ancora tanti temi che inducono appunto al pessimismo le persone, un mercato del lavoro che ancora soffre a prescindere da tutte le iniziative che si provano a prendere per rilanciarla, c'è anche scarsa capacità, lo dicevamo anche nella prima parte della trasmissione, nel portare le persone ad una concezione di risparmio che guardi agli obiettivi di vita, agli obiettivi finanziari, a quelli della famiglia, eccetera, ma complessivamente è un'infelicità che si può curare se si ci si sforza un po' di più nel ripristinare la relazione di fiducia col mondo della consulenza, che è ancora, possiamo dirlo, la grande assente da ogni tavolo appunto di dibattito, perché in realtà, ancora lo dicevo prima con Ghidoni di Ubi Pro America, c'è ancora grande distacco tra finanza e risparmiatore finale, insomma un gap che si prova a colmare ma con grande fatica. C'è da dire intanto che gli italiani che hanno un consulente bravo sono mediamente più sereni, e non stiamo parlando, diciamo, del ritorno di quello che moltiplica i pani e i pesci dell'investimento, esatto, ma quindi, quello che ti segue proprio. La speranza c'è e noi vediamo delle cose molto concrete, ma non è soltanto, come dire, un orizzonte nostro di wishful thinking, cioè di pensiero che vuole sperare, diciamo. Lo dice anche, ad esempio, tutta una serie di studi americani ultimamente sul valore della consulenza. Il valore della consulenza, studiata da appunto gli studi Vanguard, Morningstar negli Stati Uniti e in Canada, dicono sostanzialmente che il valore della consulenza sta principalmente non nell'asset allocation, nella scelta del mercato giusto, del momento giusto, del timing, tutte le cose che i nostri ascoltatori conoscono benissimo, ma sta nella capacità di fare behavioral coaching, come lo chiamano loro, cioè l'allenatore del comportamento, cioè tenere a freno le nostre paure, le nostre passioni, eccetera, e tenerci su una dieta finanziaria corretta. La dieta torna. Martelli, a Martelli brillavano gli occhi a sentir parlare in questi termini. Lo stile fornezza alimentare. Non solo di dieta, mi rilascio al primo concetto che aveva espresso, sia il coaching finanziario, che è uno step, diciamo, precedente rispetto al terapista, perché il coaching da solo è un motivatore. Il terapista cerca di andare a risolvere non patologie ma situazioni di disequilibrio. Inoltre, tutti gli studi che ha citato prima, tipo quelli di Vanguard, vanno proprio a stimare il cosiddetto behavioral gap, ossia il fatto che il fondo, ad esempio, rende un 3% e il cliente si porta a casa un 1%. Questi due punti percentuali dove vanno? Purtroppo vanno persi, perché il cliente è solito comprare sui massimi e vendere ovviamente sui minimi. E quindi si lascia trasportare dalle emotività. Senta, ma come si formeranno questi terapisti finanziari? Insomma, avete studiato anche al metodo che va trasferito loro, che poi a loro volta dovranno trasferire anche nell'approccio appunto con la clientela. Ci spieghi un po' quale sarà l'evoluzione di questa nuova professionalità sul mercato? Non so, che cosa vedremo sorgere prossimamente vedremo in Italia sorgere nel mondo della consulenza? Consulenti finanziari evoluti, ossia consulenti finanziari che capiscono sia l'importanza ovviamente dei prodotti, che questi hanno già, ma hanno compreso l'importanza del behavioral gap, perché mediamente gli studi accademici stimano una perdita di capacità reddituale in termini di questo extra rendimento pari al 2%. Se ci pensiamo bene, in una situazione anche come questa di tassi negativi o sullo zero, già perdere un 2% significa, certo, ridurre ulteriormente il nostro patrimonio. Anche qui il terapista non è solo un consulente, o meglio, non deriva esclusivamente da una formazione consulenziale, ma può essere anche un professionista nel campo della salute mentale, che magari deve potenziare le sue conoscenze nel campo della finanza. Quanti ci sono psicologi, terapisti che devono risolvere, certo, problematiche legate allo stress? Perché non dimentichiamoci, l'Associazione Americana di Psicologia negli ultimi 10 anni ha evidenziato come il denaro sia la prima causa di stress indipendentemente dal tenore di vita, dal ciclo economico. Certo, un ciclo economico negativo amplificando queste problematiche. Stavo pensando, intanto che ragionavo in questo senso, che non mi ricordo se per preparare il mio libro Dadoni di Denari avevo scoperto anche questa inchiesta in cui si raccontava che le bollette fanno ingrassare negli Stati Uniti. Il fatto di avere lo stress, appunto, di assolvere a questi impegni finanziari in realtà ti genera proprio anche delle cattive abitudini alimentari, fornezza, vedo che annuisce. Possono sembrare veramente degli aspetti folcloristici. E poi c'è un circolo vizioso, perché la scelta poi dell'alimento sbagliato va ad alimentare lo stress e quindi si una disattenzione sempre anche livelli in tutti gli altri e non se ne se esce. Posso aggiungere una cosa proprio su questo motivo, a differenza di altre cause di stress, togliere lo stress derivante dal denaro è molto difficile, perché pensiamo a casi estremi, quindi persone che non riescono ad arrivare a fine mese, c'è il rischio che abbiano necessità di chiedere ulteriori finanziamenti per appunto giungere al 31 del mese, ma richiedere nuovi finanziamenti significa poi amplificare lo stress il mese successivo quando avranno una nuova rata da pagare. Allora, quindi insomma abbiamo bisogno di questo terapista finanziario, l'importante è che poi non si apra tutto il dibattito, Martelli, perché io già me lo vedo, di costituzione di nuovi albi a cui iscriversi, cose nuove, adempimenti anche formali. Mi raccomando, poi conosco poi la categoria dove va a parare, no? Lei ci promette che quantomeno sarà... Io spero che questa terapia, un po' come lo è stato la finanza comportamentale, diventi poi materia di studio fin dalla iscrizione all'albo, perché se ci pensiamo bene alcuni anni fa non erano presenti domande riferite alla finanza comportamentale, oggi invece per superare l'esame di iscrizione bisogna conoscere anche queste tematiche. Ecco, spero che nel corso ovviamente dei prossimi anni si vada in questa direzione. Certo. Allora, tra l'altro abbiamo pochissimi minuti di tempo, ma magari qualche ascoltatore al volo possiamo anche pescarlo all'800240024 oppure al 349-238-6666 se ci volete rilasciare una testimonianza volante rispetto a quella che è la vostra relazione con il consulente finanziario, se lo ritenete, come dire, un intermediario, un interlocutore freddo e che vi vede una volta ogni tanto, se invece già veste la casacca del consulente, del terapista finanziario, vi ha accompagnato anche nei momenti critici di mercato negli ultimi anni senza avervi lasciato far prendere decisioni avventate quando i momenti non erano particolarmente favorevoli, perché poi ribadiamo, fornezza, il tema centrale è quello, sostenere le persone quando le cose non vanno bene, perché se il mercato sale tutti guadagnano e grazie, certo, che siamo tutti contenti. Ma no? Il tema non è soltanto finanziario, come giustamente diceva prima Martelli, anche se oggi lo stiamo trattando dal lato finanziario, il tema ad esempio che è il post crisi, ammesso che sia un post crisi ovviamente, è quello che le persone vogliono riprendere il controllo sul proprio denaro, cioè ridare la capacità di controllo significa, in un mondo dove la sicurezza del denaro sia in forma di reddito che in forma di investimento non c'è più, significa trovare, come dire, nuove forme, forse di terapia, ma questo lo lascio dire al professor Martelli, nuove forme di terapia, perché dobbiamo avere quell'obiettivo, cioè noi dobbiamo ridare alle persone la capacità di controllare, le persone vogliono riprendere il controllo della propria vita, è un po' l'evoluzione sociale del proprio destino anche economico. Allora, c'è un ascoltatore che dice: i consulenti attuali non hanno per la maggior parte formazione e attitudini per evolversi verso il terapista finanziario. Allora ammettiamo che naturalmente anche noi come risparmiatori dobbiamo fare la nostra parte e provare a stimolare anche il nostro consulente a fare questo lavoro, magari o lo cambiamo se non ci soddisfa in queste attitudini, o magari proviamo appunto a stimolarli in questo senso. Cosa possiamo fare noi come risparmiatori per pretendere un comportamento di questo tipo, dottor Martelli, dal nostro consulente? Come sta avvenendo in America, uno dei principi su cui si basa l'associazione internazionale non è solo quello di erogare corsi di formazione verso i consulenti, ma anche i professionisti della salute mentale, ma creare un networking, quindi identificare una sorta di albo informale, quindi semplicemente sul sito web, la lista dei professionisti che sono certificati secondo gli standard internazionali come terapisti finanziari, ai quali gli investitori possono rivolgersi. Quindi, a differenza di altre certificazioni, questa nuova qualifica vuole anche andare nella direzione dell'investitore finale, del risparmiatore. Allora, l'ultima raccomandazione la facciamo fare a Fabrizio Fornezza, appunto prima di salutarci. Qual è il risparmiatore del domani e il consulente del domani? Insomma, fra un anno che tipo di relazione vedremo tra una questi due fronti? Una relazione più femminile intanto. Ah, quindi... E non so se mi sono già spiegato, sì, perché molto. Se stiamo parlando, credo che lui, il professore, potrebbe raccontarcelo meglio, eccetera, stiamo parlando in fondo di ascolto, empatia, di dimenticare un po' i propri, anche le proprie ansie di consulente che vuole sembrare più bravo, eccetera, e praticare delle, come dire, delle capacità femminili in questo senso, quindi di genere. Io non posso dire, mi sembra ingiusto verso i consulenti, diciamo, di sesso maschile, dire che il futuro è donna anche nel mondo della consulenza, però sicuramente questa relazione più morbida, più attenta alle persone, eccetera, come dire, ha un che di genere da questo punto. Quindi di una vista. Sensibilità un po' più molto femminile maggiore, deve essere maggiore. Maturata anche dall'uomo. Ci dobbiamo fare una bella puntata. Ti è piaciuta questa considerazione finale? Allora, tra l'altro, sì, un po', come dire, il tema dell'accudimento, se vogliamo, anche che qualche volta denota, certo, un po' le nostre fragilità, le nostre debolezze, no? Ma in realtà forse nel mondo del risparmio è quell'atteggiamento giusto che nei confronti delle persone bisogna avere. Martelli, perché? No, concordo. Sì. Non è solo, come dire, una capacità caratteriale delle signore, ma è proprio una capacità fisiologica e biologica, ossia il cervello delle donne è strutturato in maniera da essere più portata a considerare e a ponderare quindi meglio anche i rischi, e non a caso sono proprio le signore a effettuare le scelte finanziarie, anche in campo finanziario, quelle migliori. Ci sono molte donne che si stanno scrivendo all'Associazione dei Terapisti Finanziari Italiani. Sicuramente sta, sì, vedendo, eh? Ci scriviamo anche io e te, ci prende Martelli? L'associazione libera è a chiunque, è aperta a chiunque voglia ovviamente andare in questa direzione. A chi ha cervello e cuore. E a proposito di cervello, Deborah, ricordiamo, se volete sapere di più sulle caratteristiche del cervello maschile e cervello femminile, andate sulle pagine di Cuore Denari, perché questo è il mese del cervello e lo stiamo proprio scandagliando. Gli esperti di Humanitas. Grazie a Fabrizio Fornezza, a Duccio Martelli. Grazie. Ci vediamo il prossimo anno al Salone del Risparmio, magari tutti. Prima, l'anno prossimo al Salone per l'intervista, magari prima per chiacchierare di altre cose. Velocemente la borsa, poi andiamo avanti con l'ultima parte di Cuore Denari. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Cuore e denari. Eccoci tornati insieme, Deborah. Eccoci. Siamo qua. Ancora al Salone del Risparmio, ultimo giorno. E chi ci sposta di qua? In cui ci siamo trovati benissimo, tante persone ci sono venute a trovare. È vero. Tanti complimenti, tanti spunti. Brava, soprattutto questi, sì. Spunti, anche nella prima parte della trasmissione ci è piaciuto molto questa relazione tra cuore e denari. Noi continuiamo a parlare di investimenti, ad esempio... Mantenere o ritrovare il peso forma è un ottimo investimento per la nostra salute, lo sappiamo tutti per esperienza diretta, quando non siamo appesantiti dai chili in più, ci piacciamo di più, ma ci sentiamo anche meglio e stiamo meglio, banalmente glicemia, trigliceridi, pressione sicuramente se ne avvantaggiano, insomma la carta parla. Però trovare la motivazione prima e successivamente la modalità per riuscire a raggiungere l'obiettivo è importante e non è sempre facile. Dobbiamo farlo perché sennò rischiamo di sprecare tempo, fatica e salute. A volte affidarsi ad un esperto potrebbe aiutarci a evitare gli errori più grossolani che non siamo magari in condizione di valutare. Allora oggi ci aiuta il dottor Stefano Erzegovesi, che è nutrizionista, medico nutrizionista, psichiatra del Centro per i Disturbi Alimentari all'Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, dottor Erzegovesi, partiamo un po' dalla sua qualifica, perché lei è un medico, è specialista in scienze, è nutrizionista, è psichiatra e si occupa di disturbi del comportamento alimentare. Noi tante volte diciamo e riprendiamo la frase siamo quello che mangiamo, ma non siamo in grado evidentemente di avere un rapporto sano, piacevole, equilibrato e appagante con il cibo, basta guardarci intorno, no? Lo sappiamo che il cibo è nutrimento e al tempo stesso piacere, ma negli ultimi anni molte persone rinunciano al piacere in nome della salute, le famose diete del senza, ma al tempo stesso c'è anche uno zoccolo duro composto da chi non vuole mangiare da malato per morire sano. Insomma, la filosofia di questo approccio era chiusa in questa frase. Dottor Erzegovesi, Forse abbiamo bisogno di aiuto, di mettere un po' i puntini sulle i, di aiutare, premesso che ciascuno poi deve fare le scelte che la pancia e il cuore e il cervello le guidano, gli suggeriscono di fare, ma intanto per essere più consapevoli. Iniziamo da quelli che tolgono, dottore Zegovesi. Sì, ma quelli che tolgono, in questo momento il concetto di mangiare senza è in questo momento anche un concetto molto forte da un punto di vista del, al di là di persone che hanno problemi di salute, per cui accanirsi contro un certo alimento, non so, c'è chi si accanisce contro il glutine, chi si accanisce contro il latte, chi si accanisce contro un altro alimento. Qui la cosa fondamentale da dire è se c'è un'intolleranza, un'allergia alimentare, ci mancherebbe quell'alimento certo. In maniera categorica, ma questo lo deciderà il medico, che in questo caso è il gastroenterologo, o comunque il medico che in questo caso farà la valutazione. In tutti gli altri casi purtroppo è spesso una moda che si segue, ma dove di fatto il dato scientifico collegato poi al reale potere, diciamo, malefico di certi alimenti è assolutamente fantasia più o meno spinta agli estremi. Ecco, ci sono comunque degli alimenti che possiamo tenere un po' sotto controllo, e su questa la ricerca, la comunità scientifica è assolutamente d'accordo, sono lo zucchero. Vero, dottor Zegovesi? Allora, e diminuire senza... il sale, però il senza, ecco, va un po' interpretato, e soprattutto nel togliere dobbiamo farci aiutare da qualcuno per evitare di togliere delle cose preziose e utili per la nostra salute. Dottor Zegovesi, è così? Questo possiamo dire il messaggio? Senza vuol dire che bisogna evitare accuratamente qualsiasi modello alimentare rigido, perché il modello alimentare rigido per cui questa cosa è un veleno, mi fa malissimo, è comunque un modello alimentare che non ci fa guadagnare salute. Sì. Verissimo che lo zucchero, tutte le farine raffinate, quindi tutti i prodotti eccessivamente poveri di fibre, quindi tutti i prodotti, diciamo, moderni dell'alimentazione, le bevande zuccherate, piuttosto che un eccesso di salumi o di carne rossa, sono tutti aspetti che vanno considerati. Ma non nell'ottica non li devo mangiare più, ma nell'ottica... se riesco a mangiarli in maniera equilibrata e soprattutto variando con tutto quello che posso mangiare di diverso, questa è la cosa migliore. Quindi più che alimentazione senza, alimentazione con altre cose, per cui non sempre solo comunque con un tipo di alimento. Quando diciamo che una dieta per essere sana deve essere varia ed equilibrata, noi aggiungiamo alla Cuore Denari diversificata. Dottore. Diversificata, la varietà in questo senso... non abbiamo bisogno di leggere trattati scientifici, pensiamo a quello che la natura a seconda delle stagioni ci propone, sia come prodotti vegetali sia come prodotti animali, e più o meno abbiamo il modo migliore per stare in salute. Allora, e continuiamo, dottor Zegovesi, in questa prima parte in cui naturalmente chiediamo agli ascoltatori di intervenire, avete corretto il vostro stile alimentare, pensate di farlo, per quale ragione? Perché il medico ve l'ha caldamente suggerito, oppure perché vi siete accorti che con il cambio degli armadi i pantaloni e le gonne della scorsa estate non, insomma, vi tirano un po', raccontatecelo, e soprattutto diteci un po' la vostra esperienza, come è cambiata la vostra vita, la percezione del vostro benessere da quando avete modificato la vostra dieta, magari togliendo qualche cosa. Ma intanto noi continuiamo, dottor Zegovesi, con chi non vuole morire sano e per questo si sacrifica a non darsi una regola, dimostrando quindi forse anche una certa consapevolezza del ruolo dell'alimentazione sulla nostra salute, nel bene e nel male. Dottor Zegovesi, sì. Perché ci sono... Io così anticipo il sano. Messaggio, eh? Ecco, che, diciamo che morire malato deve essere brutta. Quindi io mangio quello che voglio, non state a dirmi che cosa devo mangiare, perché poi il cibo è piacere. Il cibo è piacere, noi lo sottolineiamo, è gratificazione, è varietà, è colore, è sapore, esplora con i cinque sensi. Il cibo è anche nutrimento, è come nella nostra macchina, dobbiamo mettere la benzina giusta. Sarebbe un buon investimento fornire anche il nostro organismo di quello che lo aiuta a funzionare bene, però ciascuno poi fa un po' quello che vuole, giustamente. Certo. Dottor Zegovesi. Sì, in questo senso dividerei il discorso in due, nel senso chi non vuole morire sano, nel senso chi non vuole avere, come dicevamo prima, un regime alimentare molto rigido, fa benissimo a non farlo, proprio perché dicevamo un regime alimentare molto rigido, cioè le persone che poi rimangono eccessivamente fissate sul cibo inquinato, sul cibo che fa male, sul cibo che fa ammalare, normalmente non sono persone che hanno una migliore salute né fisica né psicologica da questo punto di vista. E qua entra anche lo psichiatra, la rigidità non paga. Che dice, in qualche modo, una persona che si difende dai mali del mondo tendenzialmente è una persona che vive in uno stato di stress cronico e quindi sicuramente non è una persona che può avere una buona salute. Quindi, dottore Arzegovesi, possiamo utilizzare anche il rapporto che noi abbiamo con il cibo, con l'alimentazione, allo stesso modo di quello che abbiamo con i denari, per avere un po' un indicatore del nostro equilibrio psicofisico, del nostro benessere, del modo in cui noi abbiamo, no, della nostra relazione con la vita? Sicuramente sì, un atteggiamento estremamente diffidente rispetto agli stimoli esterni, in questo caso rispetto al cibo, è sicuramente un atteggiamento che comunque non ci fa guadagnare salute. Però attenzione, l'alternativa non è chi dice ma allora chi se ne frega, nel senso, piuttosto che stare in un'alimentazione così tanto regolata, io mollo tutte le regole, per cui certo, mangio fritti 3 volte al giorno, fumo, bevo 3 bottiglie di vino al giorno e tutto quanto. Cioè il concetto è tutto quello che è rigido controllo, ma anche tutto quello che è perdita di controllo, fatto sono due segnali apparentemente opposti, però sono entrambi dei segnali che hanno a che fare comunque con un vissuto interno che è un vissuto di fragilità. Allora, tra poco abbiamo le informazioni sul traffico, ma vorrei introdurre il prossimo tema. Vogliamo parlare naturalmente anche di, parlando di correzione al nostro stile alimentare, parliamo anche di diete, il fai da te nelle diete è quasi una regola. E adesso i più previdenti iniziano a pensare alla prova costume, quindi ne sentiremo, dottor Arzegovesi, e soprattutto ne vedremo di tutti i colori, dieta del limone, del fantino, dell'acrobata, del minestrone, chi più ne ha più ne metta, e vedo già strilli in copertina, perdere 3 kg in 2 giorni, 5 in 1 mese, e insomma ci vorrebbe una guida amica per orientarsi in questa selva di proposte. Iniziamo intanto a chiedere a un amico di Cuore Denari se vuole candidarsi all'800240024 per raccontare perché, se sta pensando di perdere qualche chilo, perché la motivazione è importante, e soprattutto che cosa sta facendo, se ha già provato a mettersi a dieta, quante volte, con quali risultati. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Secondo me possiamo pescare Luca, guarda. Dai, che vorrebbe Luca raccontarci. Ci piace. Adesso chiediamo ai nostri amici se ce lo pescano. Andiamo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Cuore e denari. Sì, a proposito di pizza, lo chef Pasquale Cozzolino a New York ha lanciato il movimento a protezione dei carboidrati, che si può riassumere con un motto: una margherita al giorno e dimagrisci col sorriso. In 7 mesi, noi stiamo parlando di diete che adesso affolleranno e disturberanno le nostre giornate. In 7 mesi lo chef in questione è passato da 170 a 124 kg, quindi 46 kg di meno. È un risultato che, secondo Cozzolino, ha ottenuto mangiando ciò che gli dava più piacere senza fare particolari sacrifici. Dato che insieme al dottor Arzegovesi, che è in linea con noi, siamo in diretta dal Salone del Risparmio, stiamo parlando di investimenti, cioè cambiare il nostro stile alimentare per guadagnare o recuperare la forma e quindi la salute. Volevo sapere, dottor Arzegovesi, che ne pensa di questa dieta della pizza? Ma la dieta della pizza, la dieta del minestrone, la dieta dell'ananas, la dieta dell'uovo col pompelmo, mai, mai fare un'alimentazione che comporti l'uso di un solo alimento o di un solo piatto, è una cosa che non ha senso. Troveremo su internet, piuttosto che in televisione, piuttosto che in qualsiasi mezzo di comunicazione, qualcuno che ci dirà che in quel modo lui ha trovato la soluzione per la magrezza o per la felicità. Assolutamente tutto quello che è un'alimentazione squilibrata magari ci dà un grandissimo effetto iniziale, ma l'effetto iniziale non è legato al fatto che è la pizza che fa dimagrire in questo caso, ma l'effetto iniziale è legato al fatto che mangiando poco chiaramente si perde tanto peso. Quindi da questo punto di vista il primo messaggio che ci terrei a dare è: evitiamo qualsiasi alimentazione che ci fa concentrare su pochi alimenti ripetuti nel corso di lunghi periodi. Allora, intanto Deborah mi segnala che ci sono tanti ascoltatori all'800240024. Chiederei al dottor Arzegovesi di prendere spunto dall'intervento degli ascoltatori, che se hanno bisogno di un'indicazione più accurata possono scriverci, per dare dei consigli che possono interessare il nostro, una platea ampia di ascoltatori. E andiamo da Luca da Bari, o era, sì, qual secondo, era la lui cosa? Secondo me era il candidato ideale all'operazione che hai lanciato prima del traffico, perché nostro... no, lo prendiamo per mano e lo facciamo dimagrire. Ci mandi anche la sua foto, Luca, perché Luca ce la manda? Luca? Sì, forse. Forse. Può mandare quella di un amico. Guardi che siamo due grandi amiche noi. Luca, allora, ci racconti. Allora, il mio percorso parte così. C'è un evento scatenante che è la morte di mia suocera, che per quanto si possa dire, alla quale volevo molto bene. Quindi ho cominciato a prendere su come stomaco, cioè come nervosismo. No. Luca, se parla con il viva voce, se si avvicina al telefono è meglio per noi. Quindi è mancata la suocera. Pronto? Sì, è mancata la suocera, è stato sì, malino. Provi, se no non sì, allora Luca, vada. Sì, allora c'è questo evento scatenante, poi praticamente il cibo lo vedo come una forma di preacquietarmi la sera quando sono stanco morto, che i bambini vanno in pasti. Sì. E poi volevo chiedere se esiste una relazione tra mancanza di sonno, poco sonno e aumento di peso, e se certo, c'è una relazione certo. Fra diciamo, malattie che danno delle infiammazioni, come io ho una discopatia da parecchio tempo, e se c'è una relazione con l'aumento allora, di peso. Grazie, il dottor Arzegovesi ha capito, bisognerebbe scrivere un trattato per rispondere a Luca, ma... dottor Arzegovesi, la storia di Luca permette di sottolineare alcuni aspetti fondamentali che credo possano essere utili a tutti noi, anche se non abbiamo problemi con la relazione con il nostro cibo. Dottor Arzegovesi, sì, sì. Quali sono gli aspetti su cui possiamo lavorare? Tre punti, tutti e tre molto importanti e validi per tutti noi. Il primo punto, il concetto di alimentazione emotiva, cioè tutti noi, nel caso di grandi stress, l'ascoltatore citava un lutto, ma anche altri stress lavorativi o personali, ci troviamo ad utilizzare il cibo non più come un nutrimento, ma come una consolazione. E quindi sicuramente l'alimentazione emotiva è una cosa che va sempre considerata quando si fa una dieta, perché se io anche seguo la dieta migliore del mondo, ma poi l'alimentazione emotiva mi fa sgarrare la dieta, chiaramente l'effetto non viene. Quindi se ho bisogno un po' di svaligiare il frigorifero o anche in modo minore di cercare proprio nel cibo una sorta di consolazione, il ciucciotto piuttosto che la sigaretta quando siamo sotto tensione, il cioccolato, vuol dire che non è equilibrata. Sapori che consolano, che possono essere sapori molto dolci, molto salati o molto sapidi, sicuramente l'alimentazione emotiva va considerata. Seconda cosa importantissima, il sonno. Se noi dormiamo male o dormiamo poco, sicuramente facciamo più fatica a perdere peso sulla base di un meccanismo anche molto biologico. Se noi comunque dormiamo male, abbiamo il cortisolo più alto, se abbiamo il cortisolo più alto, tutto il funzionamento del nostro metabolismo chiaramente è un funzionamento meno efficiente. E quindi chi non dorme prende peso. Chi non dorme fa più fatica a perderlo, perché tendenzialmente è portato con il cortisolo alto, da un punto di vista metabolico, ad assimilare di più quello che mangia. Pensiamo alle persone che per motivi medici prendono tanto cortisone, facilmente sono persone che fanno fatica a perdere peso. E dall'altro, da un punto di vista proprio anche del funzionamento del controllo degli impulsi, se io dormo poco tendenzialmente faccio più fatica a controllare gli impulsi, tra cui anche gli impulsi alimentari. Andiamo a punto importante, le infiammazioni. Ecco, dove c'è situazione infiammatoria c'è sempre comunque una maggiore difficoltà a perdere peso, ma questo vuol dire, se c'è una situazione infiammatoria, parliamo col nostro medico della cura per la malattia infiammatoria, ma anche del modo migliore per mangiare nel caso di malattie infiammatorie. Allora, abbiamo Nelly da Treviso, che però non abbiamo tempo di sentire perché forse è davvero no, sì, il tempo. Però credo di capire che stia anche lei andando per eliminazione. Ecco, perché per sta eliminando, lo raccontiamo rapidamente al dottor Erzegovesi, delle sostanze, alcuni cibi per curare l'artrosi e quindi per ridurre l'infiammazione, anche il dolore articolare, e fa molta fatica. Dottore, ci sono delle evidenze che suggeriscono magari delle diete corrette per avere un beneficio a livello articolare? Ecco, per l'artrosi in generale, dicevamo, per le malattie infiammatorie, il consiglio ugualmente, come dicevamo prima, non è mai eliminare totalmente un cibo, salvo la presenza di allergie o intolleranze definite dal medico, proprio perché non esiste un singolo cibo che causa questo. Purtroppo ci sono molte diete in circolazione che accusano rispetto all'articolazione, non so, accusano i latticini piuttosto che accusano altri alimenti. In generale, nel momento in cui c'è una situazione artritica o artrosica, al di là di avere un giusto livello di attività fisica che conta sempre, la cosa importante è evitiamo un eccesso di grassi saturi, per cui i cosiddetti grassi animali, e evitiamo un eccesso di zuccheri raffinati. Per cui ok, dottore, torneremo su questo. Allora, grassi e no zuccheri. Grazie dottor Erzegovesi, torneremo su questo aspetto che ha scatenato l'interesse dei nostri ascoltatori. Assolutamente. Allora, il Salone del Risparmio termina qua. Qui. Allora, io domani ti lascio da sola, ma naturalmente ti occuperai tu della puntata del Venerdì Santo. Torniamo poi in diretta regolarmente martedì prossimo con Cuore Denari. A tutti buona Pasqua da parte mia. Tu domani ci sei. Farò gli auguri. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie.